Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, Italia in controluce, il programma di Radio 24 che racconta la cronaca italiana attraverso le piccole e grandi storie del nostro paese, come ruolo che svolge tutti i giorni in prima linea il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone nella lotta alla 'ndrangheta. Pignatone, perché la Procura della Repubblica di Reggio Calabria è nel mirino delle cosche? C'è una situazione di tensione, di fibrillazione in tutta la realtà reggina, che ha come origine da un lato un'azione dello Stato molto efficace in questi ultimi tempi, che ha portato arresti, sequestri di beni, ha portato alla rivelazione della struttura dell''ndrangheta come organizzazione unitaria, con un organo di vertice, ai rapporti con la Lombardia. Dall'altro ci sono segni di risveglio della società civile che manifesta in mezzo alla strada la sua solidarietà ai magistrati, la protesta per atti di violenza. Siamo ancora all'inizio, però sono cose significative. Da una parte il nord, dall'altra l'estero. Cominciamo con la pista che porta per esempio ai traffici dei boss nella zona soprattutto del milanese. Quali contatti ci sono tra la 'ndrangheta e le 'ndrine basse nel territorio calabrese e quelle invece in Lombardia? Ma è il caso di dire che sono la stessa cosa, nel senso che l''ndrangheta, questo è il risultato di importanza strategica dell'operazione Il Crimine, quella che la Procura di Reggio ha fatto con la DDA di Milano e che è sfociata il 13 luglio in oltre 300 arresti appunto in tutto il territorio nazionale. Il risultato è, di sotto questo profilo, di avere dimostrato che l'organizzazione è unitaria. Per organizzazione unitaria si intendono sia le cosche o i locali, come si chiamano loro, della provincia di Reggio Calabria o delle altre province calabresi, e le cosche che sono presenti in Lombardia, in Piemonte, nelle altre regioni anche all'estero. Peraltro si tratta spesso di persone legate anche da vincoli stretti di famiglia, sono tra loro parenti, alcuni sono, diciamo, emigrati, sono trasferiti al nord, ma il vincolo resta salvo, sia il vincolo di sangue sia quello criminale. Dalla strage di Duisburg fino ad arrivare alla cattura ultima proprio all'estero, al confine tra l'Italia e la Slovenia, di Antonio Cortese, c'è un filo che conduce i boss e le loro attività a installarsi in zone tra le più varie dell'Europa, tra le più varie del mondo? Questa è una caratteristica proprio delle cosche di 'ndrangheta, che sono, si parla di una loro internazionalizzazione. È un fenomeno globale, come pure è stato detto nella relazione antimafia della commissione presieduta dall'onorevole Forgione nella scorsa legislatura, nel senso che, partendo da questi piccoli paesi, piccole città della Calabria, c'è un'emigrazione calabrese composta ovviamente in grandissima parte di persone per bene, di onesti lavoratori che cercano, sono costretti a cercare fortuna altrove per le situazioni di arretratezza della Calabria, però insieme a questa vanno nelle varie parti del mondo affiliati delle cosche che, una volta arrivati sul posto, sono state riscontrate persino in Canada e in Australia, formano nuove cosche che restano sempre però legate, in qualche modo dipendenti da quelle originarie della provincia di Reggio Calabria. Poi naturalmente la globalizzazione ha i suoi effetti anche in questo fenomeno, per cui oggi da arrivare da Reggio Calabria ad Amsterdam o in Romania o, ripeto, in Australia o, che è il caso più emblematico, in Germania, non è un problema per nessuno, direi. Pignatone, quali sono, secondo lei, le nuove frontiere che gli investigatori, che gli inquirenti possono adottare nel contrasto alla 'ndrangheta? La premessa intanto è riconoscere il fenomeno. Noi crediamo di avere messo una pietra importante nella conoscenza del fenomeno con questa operazione, che ha contraddetto una vecchia lettura, probabilmente esatta alcuni anni fa e non oggi, che vedeva tutte le famiglie di 'ndrangheta fra loro molto autonome e solo occasionalmente alleate. Invece questa indagine dimostra che ci sono dei vincoli fortissimi fra le varie cosche, tanto da, ripeto ancora una volta, formare un'organizzazione unitaria con un organismo di vertice. Questa è la premessa, è sempre conoscere il fenomeno che si vuole contrastare. Da questa analisi poi discende la necessità di contrastarlo sia in Calabria, dove rimane per così dire il cuore, il cervello dell'organizzazione, sia all'estero, estero intendo rispetto alla Calabria, quindi le regioni del nord Italia, oltre che quelle fuori Italia, in cui ci sono investimenti, in cui ci sono anche fenomeni criminosi gravi, ricordato lei la strage di Duisburg, e ci vuole l'aggressione ai patrimoni ovviamente. Altro problema ancora, il contrasto alle collusioni che fanno dell''ndrangheta, come di Cosa Nostra, delle organizzazioni mafiose, perché quello che le caratterizza è, accanto alla forza militare, al radicamento sul territorio, alla forza economica, l'esistenza di gravi collusioni nell'interno della cosiddetta società civile. All'inizio di questa intervista lei ha parlato di risveglio delle coscienze civili, risveglio della società civile. Secondo lei anche questo può contribuire a lasciare più soli, credo, i boss dell''ndrangheta? Questo è fondamentale. Fenomeni come la mafia e l''ndrangheta non si sconfiggono e neanche si contrastano efficacemente solo con la repressione. La repressione è ovviamente indispensabile, ma non basta. Ci vuole una ripresa appunto di coscienza civile, ci vuole che ognuno faccia la sua parte. Sotto questo profilo, ripeto, a Reggio Calabria da qualche tempo ci sono delle manifestazioni di solidarietà e di protesta contro la criminalità che qualche tempo fa magari non erano neanche immaginabili. Perché secondo lei lo Stato nel contrasto alla mafia ha sempre avuto, tutti questi anni, diciamo dal dopoguerra ad oggi, un atteggiamento un po' ondivago? Ci sono stati momenti in cui la mafia erano all'ordine del giorno della politica da una parte, ma anche delle istituzioni, e altri momenti invece è sembrata un po' più latitante. Proprio per la Calabria ci sono stati lunghi anni di disattenzione, ma non solo della politica o delle istituzioni, ma anche degli organi di informazione, dell'opinione pubblica. È importante prendere coscienza di questo problema. Italia in controluce. La creatività è sempre un dono della natura, ma a volte si trasforma in un festival. A Firenze, Cristina Carpinelli. Bene, ci siamo lasciati alle spalle tre edizioni di grande successo. L'anno scorso abbiamo avuto 400.000 visitatori qui. Così l'anno scorso si apriva il Festival della Creatività. Migliaia di persone, giornate a tema, creatività declinata in ogni modo. Quest'anno si riparte, ma questa volta, dati i successi delle edizioni precedenti, è tutta la città di Firenze a diventare creativa. 18 piazze tematiche, cioè ogni angolo fiorentino diventerà per tre giorni un luogo dove poter andare, confrontarsi, imparare, chiedere, ascoltare musica, vedere cortometraggi. L'anno scorso il festival ruotava attorno al tema delle città. Quest'anno invece si parte dalla crisi e si cerca di dare spunti e spinte per investire sul talento. Un intero quartiere avrà per protagonisti i bambini, mentre le antiche logge fiorentine saranno i luoghi della musica e dello spettacolo. Sarà anche la prima volta che luoghi come la Facoltà di Architettura di San Verdiana apriranno le proprie porte al pubblico. Daniele Dauria è il direttore del festival. Quest'anno, dopo 4 anni, nonostante il festival abbia goduto di un certo successo di pubblico, abbiamo deciso di uscire dalla Fortezza d'Abbasso, che era, come dire, la cittadella della creatività, ma rischiava poi alla lunga di trasformarsi nella prigione della creatività. Abbiamo deciso di andare nei luoghi dove quotidianamente si fa innovazione, si fa ricerca, si studia, si produce, quindi Santissima Annunziata, una delle piazze rinascimentali della città, sarà la piazza dei bambini, perché lì ha sede l'Istituto degli Innocenti, che da storicamente si occupa di infanzia, e insieme a noi sta sviluppando un programma di giochi, attività sulla rete, laboratori che coinvolgono le scuole non solo di Firenze ma della Toscana. Attorno a quella piazza ci sono tutta una serie di strutture, dall'Accademia di Belle Arti al Teatrino del Gallo, che è una struttura molto attiva per il teatro dell'infanzia. Ecco, si sta sviluppando, come dire, una rete di eventi che in effetti possono farci dire che quella sarà la città dei bambini per il festival. Vauro, LK, Altan parleranno di convivenza e multiculturalità, ma sono i giovani i veri protagonisti, e sono veramente giovani, hanno tra i 15 e i 25 anni e sono coloro che stanno già cambiando le cose nel mondo, ancora da Oria. Noi diamo spazio a quei giovani che interpretano la propria creatività come fattore che genera innovazione, quindi ricercatori, giovani imprenditori, persone che in tutto il mondo si stanno dando da fare per capire quali sono effettivamente le idee che ci cambiano la vita. La fortuna di fare questo festival a Firenze ci dà il vantaggio di contare anche su un pubblico internazionale di passaggio, dopodiché nel corso di questi anni abbiamo costruito una rete internazionale di relazioni per cui poi ci sono persone che effettivamente vengono dall'estero per il nostro festival. Percentualmente ovviamente non è un numero rilevante, però significativo. Il resto è fatto da persone che da Milano, Bologna, Roma, Napoli, piuttosto che dalla Toscana stessa, si muovono per trovare alcuni spunti interessanti per riflettere ma anche divertirsi. Ci sarà anche Marco De Rossi, ideatore di oilproject.org. Quando vai a vedere il suo sito scopri due cose: che è nato nel 90 e che ha creato una comunità virtuale dove il segno distintivo è condividere il sapere. Ci sono insegnanti per ogni disciplina e allievi che diventano insegnanti, perché il motto di questa comunità è: la vera università è una condizione mentale. Tutte cose da imparare per essere un pochino più fiduciosi. La seconda edizione Italia in Controluce termina qui. Radio24.it, l'archivio di tutte le puntate. Tre modi per comunicare: Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Editing e montaggio di Peter Bescapè. Torniamo domani alle 6.30 con nuove storie su Radio 24.